2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 20 novembre 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it e come sempre vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it, ma vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo avrete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana in maniera automatica, anche senza passare dal nostro sito internet, il file MP3 della nostra trasmissione. File MP3 che sarà disponibile entro al massimo 1:30 dal termine della nostra trasmissione, quindi al massimo entro le 18:30. Tutto quello che dovevo ricordarvi l'ho ricordato. Partiamo dalla prima notizia che abbiamo scelto questa settimana, riguarda l'arrivo imminente di Amazon in Italia, preannunciato a Milano e Roma, da due cartelloni pubblicitari un po' particolari. Ci sono proprio solo due cartelloni in tutta Italia. Sul Lungotevere il cartello mostra un logo di Amazon e poi c'è scritto "Puntiamo sull'Italia" col simbolo di il puntatore del mouse. In Corso Venezia a Milano invece c'è scritto "Non è il solito pacco", scherzando sui pacchi che Amazon spedisce in tutto il mondo. Nella prossima puntata di 2024 potremo essere più precisi e soprattutto sarà una persona di Amazon a spiegare le novità del nuovo negozio online che, almeno nel breve periodo, darà sicuramente qualche preoccupazione agli altri store su internet. Insomma, arriva un colosso così grande e tutti i siti specializzati in e-commerce in Italia un po' di preoccupazione ce l'hanno. Sarà interessante anche vedere cosa Amazon sceglierà di vendere attraverso il negozio italiano, ad esempio ci sarà anche la musica, così come accade negli altri negozi. Per quel che riguarda la musica, per il momento è stata la Apple ad aver messo a segno un bel colpo da 90, perché dopo anni di trattative e a 10 anni dal lancio del negozio di musica online dell'Apple, sono disponibili sull'iTunes da martedì scorso le canzoni dei Beatles. Forse l'unica grande band a non essere ancora sbarcata sul web. L'unica nota stonata sono i prezzi, perché come sempre il cambio viene fatto alla pari tra dollaro ed euro, quindi il pacchetto con tutti i 13 album dei Beatles costa negli Stati Uniti $149 e in Europa €149, quando al cambio attuale stiamo parlando di quasi €109, quindi paghiamo in Europa 40 euro in più per questo pacchetto che contiene tutte le canzoni. Naturalmente si possono downloadare e pagare anche le singole canzoni. Vedremo se questa mossa avrà grande successo per i Beatles e anche per la Apple. C'è chi dice che in realtà molti in tutto il mondo hanno già o le canzoni originali comprate tanto tempo fa o acquistato il cofanetto recentemente rimasterizzato dei Beatles su CD, oppure in molti hanno scaricato illegalmente attraverso il peer-to-peer le canzoni dei Beatles, quindi in pochi sarebbero interessati a fare questo acquisto, vedremo. Però in occasione dell'arrivo dei Beatles online, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana ha fatto il punto sul mercato, spiegando che l'offerta legale di brani online rappresenta oggi circa il 20% dell'intero mercato musicale. Nei primi sei mesi del 2010, infatti, la musica digitale ha fatto registrare oltre 11 milioni di euro di ricavi, ed un incremento del 15% rispetto all'anno precedente. Il download da internet ha fatto registrare un più 34% ed è in crescita anche lo streaming, quindi l'ascolto in diretta su internet, con un incremento del 38%. A proposito di prezzi, la stessa politica è stata adottata da altre aziende, tra cui la Microsoft per il Kinect, che costa $149 o €149, dipende dove vi trovate. Microsoft sta però già festeggiando, perché il nuovo accessorio che permette, lo ricordiamo, di guidare i videogiochi tramite i movimenti del corpo, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quindi se volete riascoltare quella puntata sicuramente è molto interessante. La Microsoft sta già festeggiando perché ha raggiunto quota 1 milione di vendite in circa 10 giorni. Microsoft stima di vendere 5 milioni di pezzi entro la fine dell'anno e l'obiettivo verrà probabilmente centrato visto che siamo di fronte alla stagione natalizia e considerando che le vendite del Kinect sono iniziate in questi giorni in Asia. Oggi, ad esempio, è la data d'esordio per il Giappone. Nel frattempo Sony, che ha lanciato circa un mese e mezzo fa Move per PlayStation, un sistema più simile al controller della Wii di Nintendo con un accelerometro, una videocamera, Sony ha dichiarato di avere venduto oltre 1,5 milioni di unità in Europa, di cui 60.000 in Italia e 1 milione negli Stati Uniti, ma in questo caso è passato più di un mese, circa un mese e mezzo. Abbiamo un'altra notizia che riguarda Facebook, che ha presentato questa settimana in occasione del Web 2.0 Summit che si è tenuto a San Francisco un nuovo sistema di comunicazione che integra la chat del popolare social network, gli SMS e anche la posta elettronica, tutto in un'unica pagina, tutto in un unico contenitore. Il servizio si chiama Messages ed è al momento disponibile solo negli Stati Uniti, quindi solo per gli utenti di Facebook americani. Per ora quindi solo questi utenti avranno a disposizione anche i nuovi indirizzi email con dominio @facebook.com, quindi potrebbe esserci un enrico.pagliarini@facebook.com, ma visto che io abito in Italia questo non è ancora disponibile. Alcuni osservatori vedono in questa novità un tentativo di attaccare il mercato della posta elettronica gratuita, al momento dominato da grandi nomi come Yahoo, Microsoft e naturalmente anche Google con la Gmail, ma secondo Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, un moderno sistema di comunicazione non è rappresentato dalla posta elettronica, ma da un flusso integrato di tutti i sistemi oggi utilizzati ed è per questo che Facebook ha lanciato Messages. L'azienda, che ha in Italia una piccola presenza, non è stata al momento disponibile per alcun commento. Parliamo di motori di ricerca. È in rete da ieri un nuovo motore di ricerca verticale, www.arte.it, un motore completamente italiano, molto ben fatto e dedicato esclusivamente all'arte. Un servizio verticale che punta a mettere ordine nel caos di internet. È esperienza comune che quando si cerca qualche cosa su un motore di ricerca arrivano talmente tanti risultati che si fa fatica a capirci qualche cosa. Quindi arte.it punta a mettere ordine nel settore dell'arte. Adesso parliamo di Wi-Fi. Sulla prima pagina del quotidiano francese Le Figaro viene pubblicata oggi una ricerca commissionata da una società californiana, la Rucus Wireless, che si occupa di Wi-Fi. Tra i francesi che devono scegliere una camera d'albergo, pensate che il 74% preferisce sia dotata questa camera di una connessione Wi-Fi piuttosto che di una vasca da bagno. I responsabili dell'azienda spiegano che, come una volta la televisione, proporre oggi una connessione internet senza fili è un servizio ordinario di cui tutti i clienti si aspettano di poter beneficiare gratuitamente. Dicevo una o due settimane fa che è un po' come il bagno, tutti oggi si aspettano che in un locale pubblico ci sia il bagno e sia gratuito e sia pulito. Oramai bisognerebbe ci fosse il Wi-Fi, ma siamo ancora molto indietro, sono pochi gli esercenti che hanno compreso l'importanza di questa tecnologia. La connettività, lo diciamo spesso, è oramai una necessità per buona parte della popolazione, soprattutto quella che si sposta e ha bisogno di accedere alle informazioni mentre si muove. A questo naturalmente servono i computer portatili, gli smartphone e tutti gli altri mobile devices che si connettono grazie alla rete di telefonia mobile. Ma che cosa succede se ci troviamo su un mezzo di trasporto collettivo? Ne abbiamo parlato altre volte, abbiamo parlato di treni, abbiamo parlato di aerei. Bene, oggi riparliamo di treni, di Wi-Fi sul treno, tutto questo tra poco a 2024. Vi aspettiamo tra un minuto. Da pochi anni alcune compagnie ferroviarie in Europa e nel mondo offrono internet a bordo dei propri treni. Ci sono anche alcune compagnie aeree nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che offrono a bordo il servizio Wi-Fi e quindi un hotspot all'interno della cabina che permette poi a tutti coloro che hanno un computer portatile, uno smartphone o qualsiasi altro strumento di connettersi alla rete e di conseguenza anche ad internet. Dal 12 dicembre ci sarà un servizio analogo anche a bordo dei treni Frecciarossa di Trenitalia. L'amministratore delegato delle ferrovie, Mauro Moretti. Su tutta la flotta Frecciarossa, che scorre sull'alta velocità, dal 12 dicembre vi saranno i servizi di connettività con continuità e alta qualità per telefoni, per computer, per smartphone, per iPad, per qualsiasi tipo di strumento che deve dialogare con via radio con l'esterno. Da settembre prossimo tutte queste cose saranno estese anche alla flotta Frecciargento, cioè quella che va da Roma verso Verona o Roma verso Venezia, per intenderci. Tra poco entreremo più nel dettaglio di questa tecnologia, cioè del come questa connettività viene fornita a bordo dei treni. Sostanzialmente all'interno di ogni carrozza viene creato un hotspot Wi-Fi e viene anche ripetuto un segnale UMTS. Il progetto è stato lanciato dalle ferrovie che hanno scelto Telecom Italia come partner tecnologico. Franco Bernabè è l'amministratore delegato di Telecom. Dunque nasce da una richiesta delle Ferrovie dello Stato, ma nasce anche da una nostra esigenza, cioè l'esigenza di servire i nostri clienti in mobilità, anche in condizioni molto critiche dal punto di vista delle esigenze tecnologiche, che sono quelle presentate dai treni ad alta velocità. Treno ad alta velocità è un mezzo che viaggia a oltre 300 km all'ora, quindi costringe l'infrastruttura tecnologica a una serie di interfacciamenti con la rete estremamente complessa, perché ogni stazione radiobase deve trasferire il segnale mano a mano che viene lasciato il campo, quello successivo. Questo farlo a 50-100 km all'ora è semplice, farlo a 300 km all'ora è molto complesso, anche perché ogni telefonino, ogni computer, ogni chiavetta vede contemporaneamente decine e decine di stazioni radiobase. In più il treno è schermato, quindi il motivo per cui non si prende il segnale o si prende male il segnale oggi è per il fatto che il treno è schermato. Quindi la complessità tecnologica del problema era una complessità notevole che noi abbiamo dovuto risolvere, abbiamo risolto tra l'altro offrendo ai nostri clienti, e clienti di Telecom Italia ovviamente, e quando gli altri operatori entreranno sull'infrastruttura che noi abbiamo costruito, a tutti gli operatori, abbiamo offerto due soluzioni: la possibilità di avere accesso in terza generazione, cioè con l'UMTS, e quindi i servizi voce, i servizi di browsing tradizionale, e l'accesso Wi-Fi, perché attraverso l'accesso Wi-Fi il cliente potrà accedere al portale di treno. Il portale di treno consentirà di fare navigazione da Wi-Fi, oltre che ovviamente la navigazione da UMTS, ma oltre a quello il cliente potrà accedere a una serie di contenuti di servizio o di intrattenimento che gli consentiranno di arricchire la sua esperienza di viaggio. Quindi il cliente potrà contemporaneamente lavorare, servirsi dei servizi di comunicazione, ma anche servirsi dei servizi di intrattenimento, che saranno servizi di intrattenimento importanti, che sono quelli che erogherà Cubovision, che oggi è disponibile su tre treni, ma che a maggio verrà diffuso su tutta la rete. Senta, che tipo di investimento avete fatto e incassate soldi da Trenitalia oppure no? No, dobbiamo, diciamo, per quanto riguarda i servizi, sono tariffati normalmente per quanto riguarda l'accesso UMTS, quindi i piani tariffari di tutti gli operatori, ma ovviamente i piani tariffari nostri. I servizi di intrattenimento a bordo saranno servizi tariffati ad hoc, quindi se uno vorrà vedere un film pagherà per il film che vede, o se vorrà vedere delle serie televisive pagherà per le serie televisive. Quindi diciamo che la vera tariffazione riguarderà i servizi a bordo, i servizi di intrattenimento a bordo, quindi soprattutto i servizi video. Allora, adesso entriamo più nel dettaglio di questo sistema. Oscar Cicchetti è il responsabile della rete di Telecom Italia. Sicuramente per rendere disponibile un segnale all'interno di un treno che si muove a livello a 300 km all'ora, in primo luogo è stato necessario aumentare considerevolmente la copertura lungo il tracciato. Ma il 20% dell'alta velocità è in galleria, quindi secondo tema garantire la copertura delle gallerie. Fatto questo, quindi diciamo una volta garantito un numero di sistemi radianti sufficiente a garantire l'illuminazione del treno che scorre dentro questo, lungo il suo binario, viene fuori il problema della gabbia di Faraday, quindi di riportare il segnale in maniera efficace all'interno del treno. Allora lì è stata scelta una tecnologia che cattura il segnale dall'esterno, quindi ci sono delle antenne su ogni carrozza che catturano il segnale mobile. Questo segnale viene ripetuto ed amplificato all'interno delle carrozze del treno. A questo punto che cosa è successo? È successo che dentro il treno si trova una copertura mobile analoga a quella che c'è all'esterno. In questo modo funzionano quindi i telefonini voce, funzionano gli smartphone connessi a rete 3G e funzionano i PC connessi attraverso chiavetta 3G. Accanto alla disponibilità del segnale 3G abbiamo anche realizzato una copertura Wi-Fi, quindi il treno è stato coperto con degli hotspot Wi-Fi. Questi hotspot Wi-Fi possono collegare PC, personal computer connessi in Wi-Fi e li portano in due direzioni diverse. La prima su un server di treno dove sono residenti contenuti proprietari, magari dinamicamente aggiornati, quindi film, documentari, informazioni e quant'altro, ma la rete Wi-Fi accede poi alla banda 3G, alla disponibilità, alla connettività 3G e quindi riesce ad offrire anche navigazione. Senta, a proposito di Wi-Fi, andando fuori dal treno, vista l'imminente liberalizzazione, voi siete interessati a questo? Potrebbe essere un business o no? Ma questo è un discorso più generale, più complicato. Innanzitutto siamo in attesa di una coerentizzazione che sia importante tra il decreto Pisano e la legge di apertura Wi-Fi, quindi diciamo una modalità, una ratio unica, un razionale unico per garantire privacy, libertà ma anche sicurezza. Quindi siamo in attesa che si chiarisca complessivamente il quadro normativo. Secondo lei questo può essere un business o è un servizio che, così come accade in treno, l'albergatore, il ristoratore fornisce ai propri clienti e non riguarda direttamente le aziende di telefonia mobile? Ma guardi, può essere un business per le aziende di telefonia mobile, perché in realtà le reti di telefonia mobile hanno sempre più bisogno di essere scaricate dalle punte di traffico. Allora grandi concentrazioni di clienti, coperture indoor, siano fatte in Wi-Fi, siano fatte con femtocelle, quindi con delle stazioni direttamente di rete mobile specializzate per ambienti interni, è sicuramente un tema che riguarda anche i conti economici delle compagnie di un gestore, o per aumentare i ricavi o per diminuire i costi. Beh, abbiamo divagato rispetto al treno di cui stiamo parlando, visto che Oscar Cicchetti è responsabile della rete delle tecnologie di Telecom Italia, abbiamo fatto questa domanda in vista di una imminente, speriamo, confermata liberalizzazione dal prossimo anno dei servizi Wi-Fi in Italia. A tal proposito vi ricordo che parleremo di Wi-Fi anche nelle prossime settimane, quindi se avete dubbi, domande, proposte potete scriverci al nostro indirizzo 2024@radio24.it. Tornando sul treno, vanno dette ancora un paio di cose. La prima è che in passato, chi ha buona memoria ricorderà, abbiamo parlato di un sistema analogo utilizzato dalle ferrovie francesi. Per la verità non su tutta la rete, non su tutti i treni. Trenitalia ha annunciato che dal 12 di dicembre la disponibilità sarà su 60 treni, sui 60 treni Frecciarossa nella tratta Napoli-Roma-Firenze-Bologna-Milano-Torino, quindi la tratta principale dell'alta velocità. Dicevo che la Francia ha scelto come sistema di connessione tra il treno e la rete internet vera e propria il satellite. Le performance del satellite non sono eccezionali e soprattutto sono abbastanza legate ad una tecnologia che non verrà sviluppata molto nei prossimi anni. Certo, possono essere lanciate lanciati nuovi satelliti, ma la frequenza di aggiornamento dei satelliti non è così elevata come le reti terrestri. E poi c'è un altro problema: in galleria il satellite non si vede, e quindi sicuramente quello che è stato fatto in Italia è tecnologicamente più adeguato alla nostra rete, ma direi anche in prospettiva più adeguato all'upgrade tecnologico dei prossimi anni. La seconda cosa che va detta è che i clienti degli altri operatori, oggi abbiamo parlato di Telecom Italia perché è stata scelta da Trenitalia come partner tecnologico, dicevo, i clienti degli altri operatori non sono e non saranno discriminati, perché la ripetizione del segnale a bordo della carrozza copre tutti, quindi ognuno avrà un segnale più forte, UMTS, 3G e anche GSM tradizionale. Poi dipenderà se gli altri operatori faranno un upgrade della propria rete vicino alla ferrovia lungo tutti i 1000 km di rete ferroviaria ad alta velocità. Ma quanto costerà il Wi-Fi? Perché per quanto riguarda la connettività 3G abbiamo detto più volte, ripetuto, che si procede rispetto ai piani tariffari di ognuno. Ma quanto costeranno invece le connessioni al Wi-Fi? Purtroppo al momento non sono state fatte delle ipotesi, c'è solamente una notizia che riguarda il primo mese di servizio, come spiega Alessandro Musumeci, che è responsabile dei servizi informativi delle Ferrovie dello Stato. Come è stato spiegato poco fa dal ministro delegato di Ferrovie dello Stato e di Telecom, prevediamo un mese di sperimentazione gratuita, poi naturalmente andremo a regime con delle tariffe che probabilmente saranno tariffe flat, e quindi non dipenderanno da quanti dati si scaricano ma dal tempo con cui si connette, e saranno naturalmente proporzionate al tempo di viaggio, quindi in qualche modo saranno legate al biglietto. Questo vuol dire di fatto che io potrò tranquillamente accedere con la rete Wi-Fi da quando inizio il viaggio, o magari da quando sono in stazione, a quando direttamente arrivo, in modo continuativo per poter lavorare oppure per poter fruire di qualunque contenuto multimediale che esiste sulla rete. Chiudiamo questa parte dedicata al Wi-Fi a bordo dei treni. È una prospettiva molto interessante quella della diffusione di internet sui mezzi di trasporto collettivo, quindi non solo treni ma anche autobus. Ci sono varie sperimentazioni in giro per il mondo. Aerei, naturalmente, forse una delle cose più complesse da equipaggiare con reti Wi-Fi, e anche navi, perché anche sulle navi, soprattutto quelle da crociera, esiste questa possibilità. Siete all'ascolto di 2024, questa è Radio 24, ci risentiamo tra qualche minuto. Questa è la seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Ricordate che andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, ma ci trovate anche online sul nostro sito internet, trovate tutte le informazioni www.radio24.it. E come sempre vi ricordo che forse uno dei metodi più semplici e anche più divertenti per riascoltarci è quello offerto dal servizio podcast. In questo modo potete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Esistono software particolari molto semplici da utilizzare e che si trovano gratuitamente su internet che vi permettono di gestire i servizi podcast. Un nuovo modo per riascoltare i nostri programmi e magari anche farsi un archivio delle puntate. Bene, adesso abbiamo parlato di treni, prima dei servizi Wi-Fi a bordo, vanno dette altre due cose. Beh, la prima che il servizio sarà disponibile dal 12 dicembre, vedremo, sarà interessante vedere come andrà, come funzionerà il servizio, soprattutto in questi primi mesi. Noi abbiamo fatto una sperimentazione assieme alla stampa italiana, ai giornalisti italiani giovedì. Devo dire che in questa prima sperimentazione sicuramente andava più forte il treno rispetto alla connessione internet, ma visto che mancano ancora alcune settimane, verranno messi a punto, speriamo, i sistemi per offrire favorire una navigazione felice senza problemi a bordo del treno. A proposito di costi, visto che è imminente l'arrivo di altri operatori sulle reti ferroviarie italiane, beh, sicuramente quello del wifi a bordo potrà essere un fattore competitivo, quindi magari fra un anno, due, tre anni non costerà più nulla questo servizio e ci potremo connettere gratis a bordo del treno. Adesso cambiamo argomento, parliamo di web, radio e TV su internet, soprattutto di TV. Ci sono un po' di polemiche perché si sta arrivando ad una definizione di alcune regole per la televisione e anche per la radio su internet, ma per saperne di più è con noi Alessandro Longo, che saluto. Alessandro, bentornato a 2024. Grazie, saluto gli ascoltatori. Per quale motivo ci sono queste polemiche, Alessandro? C'è battaglia perché, ricordiamo, queste sono le prime regole per le web TV e le web radio anche in Italia, e finora c'erano regole, non c'era burocrazia, non c'erano obblighi, tuttora è così. Quando diventeranno valide queste regole, dovranno le emittenti sul web dovranno sottostare alcuni obblighi, alcuni doveri che sono molto simili a quelli delle emittenti tradizionali, e questo ha scatenato le polemiche. Anche perché, in base alle prime indicazioni, queste sarebbero regole anche un po' stringenti, che vanno un po' contro, cozzano con la libertà tipica della rete internet. Facciamo un passo indietro e spieghiamo che queste regole l'autorità le dovrà pubblicare e le dovrà approvare su obbligo di una legge, di un decreto che porta il nome di Romani, in recepimento di una direttiva europea. Diciamo proprio in sintesi il motivo, insomma, di queste novità. Sì, infatti nel 2009 il decreto Romani ha cominciato il recepimento di questa direttiva europea, poi a febbraio effettivamente c'è stato il decreto Romani che dice ad Agicom, cioè l'autorità garante delle comunicazioni, adesso tu devi fare un regolamento sulle web TV e le web radio, tra le altre cose, in modo tale che queste abbiano i primi doveri. Agicom si è messa d'impegno, ha fatto una prima bozza di regolamento che poi ha mandato in consultazione, cioè ha permesso a tutti di esprimere poi i pareri, e qualche giorno fa si è riunita in consiglio dicendo: ok, noi adesso vogliamo imporre alle web TV, alle web radio questi obblighi, devono dare una dichiarazione di inizio attività, devono dire insomma adesso noi cominciamo a trasmettere, pagare una certa cifra che è 1500 euro per le web TV, 1750 euro per le web radio, sono costrette a alcuni obblighi tipo obbligo di rettifica, tutela di minori, e c'era questa idea, c'era anche un testo che riguardava soltanto le web TV con palinsesto, cioè quelle un po' più simili alle TV tradizionali, però un momento prima di firmare questa cosa è scoppiata la polemica, le web TV hanno protestato, gli esponenti dell'opposizione hanno fatto la voce grossa, il blog di Di Pietro ha segnalato il fenomeno. Che è successo? Agicom, e in particolare il presidente di Agicom, Corrado Calabro, ha detto al Consumers Forum: non vi preoccupate, abbiamo recepito le motivazioni della polemica, le regole effettive saranno più leggere, penseremo comunque a tutelare la differenza del web rispetto alla TV tradizionale, soprattutto il fatto che ci sono anche web TV piccole. In particolare è interessante perché ha criticato il decreto Romani, ha detto che farà questo anche se le norme del decreto Romani sono un po' puntute, ha usato questo termine, come dire che sono un po' severe, un po' troppo severe. Ecco, quindi una rassicurazione, la decisione sarà prevista per il 25 novembre. Quindi la prossima settimana. In effetti il decreto Romani, che ripetiamo è un decreto che recepisce una direttiva europea, era stato criticato, viene ancora criticato da molti per essere un po' severo, cioè aver recepito questa direttiva in modo un po' troppo stringente. Questa del 25 novembre sarà un'altra bozza o sarà la decisione definitiva? Quindi quello che verrà approvato lo si dovrà accettare. Potrebbe essere la decisione definitiva, a meno che non ci siano altri contrasti in consiglio e quindi la decisione viene rinviata, però è probabile, si punta all'approvazione definitiva. Bene, Alessandro, grazie per averci aggiornato su queste ultime novità, ti auguro un buon lavoro e un buon fine settimana, presto. Grazie, saluto gli ascoltatori. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di business intelligence. Potrebbe sembrare una cosa strana, astratta, difficile, in realtà potremmo definirla un acceleratore di business per le aziende. Forse quelle più grandi, ma anche quelle medio, piccole, possono beneficiare di alcuni cambiamenti tecnologici. Ma che cos'è la business intelligence e soprattutto a che cosa serve? Le aziende italiane la utilizzano? Saluto Carlo Vercellis, che è il responsabile scientifico dell'Osservatorio Business Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. Professore, benvenuto a 2024. Buonasera, grazie a lei per l'invito. Partiamo proprio dal concetto. Io ho detto che potremmo considerarlo, semplificando moltissimo, un acceleratore di business, ma come potremmo definire la business intelligence e tutte le tecnologie che in qualche modo vengono racchiuse in questo termine? Ah, proviamo a dire prima di tutto a cosa serve in termini molto generali. Serve a prendere decisioni migliori, decisioni ottimizzate, decisioni che aiutano ad aumentare i margini, i ricavi, a comprimere, a ridurre i costi con un aumento di efficienza da un lato, e dall'altro decisioni più tempestive, cioè arrivare a individuare tra molte alternative, tantissime o addirittura infinite alternative disponibili al decisore, quale è migliore in tempi più brevi, quindi efficacia delle decisioni e tempestività. Stiamo parlando sostanzialmente di tecnologie software, solo ed esclusivamente? Stiamo parlando in prevalenza di tecnologie software, anche se naturalmente il beneficio che deriva da miglioramenti sull'hardware si sente, permette di avere elaborazioni di grandi moli di dati, algoritmi di elevata complessità che operano in tempi più bassi, più contenuti, ma prevalentemente parliamo di software, anzi mi faccia dire, prevalentemente parliamo di metodologie, di modelli matematici, di modelli statistici, modelli predittivi, modelli di ottimizzazione, modelli predittivi che servono ad avere migliori previsioni di eventi che si realizzeranno nel futuro. Le faccio un esempio: avere una buona capacità predittiva di quali clienti potrebbero essere a rischio e abbandonare un servizio, immagino un operatore di telefonia mobile, una banca, una compagnia assicurativa, e quindi nei confronti di quei clienti attuare azioni rivolte alla fidelizzazione. Questo è un esempio di utilizzo di modelli predittivi. Modelli predittivi per la gestione del rischio, pensi in campo assicurativo, modelli di ottimizzazione che, come dicevo prima, scelgono la migliore tra tante alternative disponibili. Quindi parliamo di software, ma dietro questo software ci sono delle tecniche, degli strumenti, dei modelli matematici, e la tecnologia è ovviamente un facilitatore. Lei ha citato alcuni settori dove i sistemi di business intelligence vengono utilizzati, perché effettivamente per alcune aziende è forse più naturale rispetto ad altre l'utilizzo di queste tecnologie. Esiste anche una dimensione adatta a questi strumenti? Si dice che questi strumenti sono più adatti a grandi aziende piuttosto che alle piccole, o state notando anche da questo punto di vista un cambiamento? Ma distinguerei tra due tipi di strumenti. Strumenti rivolti all'accesso tempestivo ai dati, quindi una visualizzazione flessibile, sistemi di reporting direzionale, come vengono chiamati, quindi sistemi che ci permettono di avere delle viste logiche, dei grafici, degli istogrammi, dei cruscotti che tengono monitorato l'andamento dei principali indicatori di prestazione del business. E questi sicuramente sono rivolti così alle grandi come alle medie che alle piccole realtà. Se parliamo invece di quell'elemento più innovativo che noi chiamiamo Advanced Analytics, cioè un utilizzo di modelli matematici più sofisticati, rivolti, come dicevo prima, in chiave predittiva e di ottimizzazione, beh, sicuramente per un fatto non tanto di costi, ma soprattutto per un problema di preparazione culturale all'utilizzo da parte di chi è l'utente di questi sistemi, probabilmente ancora ci limitiamo a imprese di dimensioni medio-grandi. Professore, rimanga con noi, adesso per noi c'è una breve pausa, poi avremo anche un altro ospite, un genio delle tecnologie, potremmo definirlo, questo tra poco a 2024. Stiamo parlando di business intelligence, di sistemi che permettono di analizzare i dati che stanno aumentando sempre di più nelle aziende, ma in internet in generale. Ne stiamo parlando con Carlo Vercellis, che è responsabile scientifico dell'Osservatorio Business Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. Professore, le aziende italiane utilizzano questi sistemi oppure no? No, direi proprio che le usiamo, sono in forte crescita. Noi da 3 anni abbiamo questo osservatorio dedicato al tema e costantemente rileviamo un incremento che si situa tra il 7 e l'8%, quindi ben al di sopra della media degli investimenti, dell'incremento di investimenti in sistemi ICT. Prospettive di crescita per il prossimo triennio che si attestano sui valori che ho indicato, quindi un settore che nonostante il difficile momento delle economie mondiali continua a crescere nel nostro paese come all'estero. Notiamo che alcuni comparti rivelano una maggiore propensione a investire, a sviluppare applicazioni in questo ambito, storicamente il settore dei servizi, i settori con una forte presenza di clienti estremamente irrequieti che possono facilmente passare da un operatore a un altro, quindi i settori bancari, delle assicurazioni, il comparto finance, quindi da un lato, il settore telco e utilities che come sappiamo affrontano una forte competizione per l'unbundling, per la liberalizzazione del settore. Il settore dei media e dell'editoria, ma anche il settore manifatturiero, sempre più, soprattutto su prodotti di consumo, su prodotti destinati alla grande distribuzione, la stessa grande distribuzione, tutti noi abbiamo in tasca carte fedeltà che quindi permettono la raccolta di dati agli operatori della grande distribuzione sui nostri comportamenti d'acquisto, la nostra profilazione e la possibilità poi di sviluppare attività di marketing mirate. Le faccio un'ultima domanda. Le aziende che operano anche su internet o prevalentemente su internet hanno a disposizione un maggior quantitativo di questi dati da elaborare, quindi diciamo l'utilizzo di sistemi di analisi dei dati forse è una soluzione naturale di questo business? Assolutamente sì, lei centra un problema rilevante e che abbiamo evidenziato nell'ultimo anno come un trend in forte crescita. Se è vero che il web e anche i social networks all'interno del web rappresentano ormai una vetrina, un luogo in cui fare promozione dei propri prodotti, un luogo nel quale circolano le opinioni, si parla di brand awareness, di sentiment analysis, per riferirsi a che cosa? All'attitudine di visitatori, di forum, blog, di chi lascia i messaggi, di chi esprime opinioni sui prodotti. Se questo, dicevo, rappresenta oggi un canale estremamente importante per determinare il gradimento da parte del pubblico di un prodotto, è evidente che gli strumenti di business intelligence devono integrare alle informazioni strutturate presenti nei database interni di un'impresa devono affiancare, dicevo, le informazioni e i dati che escono dall'analisi del web, quindi informazioni destrutturate che si affiancano a informazioni strutturate e permettono, per darle un'idea, le informazioni oggi provenienti dal web rappresentano più dell'85% delle informazioni a disposizione di un'impresa, quindi una componente molto forte, e questo permette di intercettare tempestivamente, ad esempio, flussi e di opinioni negative nei confronti di un prodotto, tentando di intervenire e modificare questa tendenza. Ad esempio, abbiamo casi concreti di situazioni di questo tipo che sono state decisive per ridurre possibili danni e possibili perdite, o viceversa, per potenziare le opportunità di mercato. Professore, la ringrazio, a presto. A presto, arrivederci. E proprio per parlare dell'esplosione dei dati e della crescente quantità di informazioni che le aziende hanno oggi a disposizione, abbiamo incontrato recentemente Stephen Probst, che è il responsabile delle tecnologie, proprio un genio del settore, dicevo, responsabile delle tecnologie di Teradata, un'azienda americana specializzata in sistemi per l'analisi dei dati, sistemi conosciuti anche come data warehouse. Gli americani parlano sempre più recentemente di big data, grandi dati, grandi quantità di dati. Che cosa significa? Stephen Probst. Big data is this interesting transition from companies using. Con l'espressione big data indichiamo un interessante passaggio che compie un'azienda. Dall'utilizzo, ai fini della strategia di business, dei dati acquisiti dalle semplici transazioni, ad esempio il fatto che un cliente ha comprato questo o quell'altro prodotto, al domandarsi, andando oltre, che cosa abbia portato a quell'acquisto. Penso ad esempio a tutti i percorsi dell'utente che clicca su vari link, i commenti sull'utilizzo di quel prodotto, insomma, non solo l'acquisto in sé, ma l'intera esperienza. Not just the transactions, but the whole experience. Un'altra espressione che viene utilizzata è quella di socializzazione dei dati, data socialization. Che cosa significa? Pensiamo naturalmente e principalmente ai social network, ma poi tradotto nella catena di business per un'azienda? Well, part of the experience in a modern customer is. Una parte delle attività che interessano il consumatore moderno si realizza attraverso i social networks. È qui che troviamo i dati non strutturati, come ad esempio i commenti sui prodotti acquistati che vengono postati su Facebook, Twitter, i blog, eccetera. Facebook or on blogs and tweets and gathering information. L'azienda deve prendere in considerazione i dati che provengono dalla blogosfera, non solo quelli che le vengono rilasciati in maniera convenzionale dagli utenti. In addition to the traditional legacy structured data. C'è un altro trend estremamente interessante, a parte questi li lasciamo per altre puntate, i problemi legati alla privacy. Stiamo assistendo ad una esplosione di dati che stanno arrivando o arriveranno sempre più spesso da sensori che sono sparsi un po' ovunque. Che cosa intendete, che cosa possiamo immaginarci per il prossimo futuro? The use of sensors is sort of at a very early stage right now. Si assiste ad un sempre maggiore utilizzo di sensori nella vita di tutti i giorni, anche se questa tecnologia è ancora ad uno stato embrionale. Ad esempio, le nostre automobili vengono tracciate da sensori quando attraversano i caselli in maniera automatica, grazie al ricettore che hanno sul parabrezza. Now imagine sensor technology that tracks every product in a store, every part. Immaginiamo un domani che dei sensori avanzati siano in grado di tracciare ogni singolo prodotto, ogni pezzo di ricambio, ogni singola performance di un'automobile. Quando si arriverà a tanto, la quantità di dati a disposizione sarà assolutamente immensa e, grazie ad essa, sarà possibile sapere esattamente quando il cliente dovrà portare l'auto in officina, per quali motivi avrà deciso di acquistare un determinato prodotto in un determinato negozio, e così via. What is the path that a customer takes through the store before they buy something? This is all available through sensor data. Abbiamo detto prima che le aziende italiane utilizzano sistemi per l'analisi dei dati, ma in realtà le aziende utilizzano tutti i dati che hanno a disposizione? I think that most companies are using only a small fraction of the data that they really have. Credo che la maggior parte delle aziende utilizzi solo una minima parte dei dati in loro possesso. Questo accade a volte semplicemente perché non sanno come utilizzarli. oppure perché sono intimorite dalla mole di dati, oppure dai costi che temono di dover affrontare. Ma se si osserva il trend nell'utilizzo di questa grande risorsa e i vantaggi che essa comporta, ci si rende conto di come lo sfruttamento dei dati sia una grandissima opportunità per le aziende. Ci può fare un esempio di un'azienda che utilizza a suo giudizio molto bene l'analisi dei dati? There are many. One of the most well-known is eBay. eBay is incredibly sophisticated. Beh, un esempio di quanto lo sfruttamento dei dati possa essere fondamentale per una compagnia è certamente eBay, che ha una tecnologia estremamente sofisticata nell'elaborazione dei dati stessi. eBay non utilizza solo le informazioni relative alle aste, alle offerte, gli acquisti, ma anche quelle relative all'intera navigazione degli utenti. Grazie a questi dati allargati, è così in grado di personalizzare i negozi online, intercettare le truffe. E in generale eBay è sempre alla ricerca di modi nuovi per sfruttare i dati e offrire un servizio più innovativo e personalizzato. Lei che tipo di consigli dà alle aziende quando si parla di analisi dei dati? I think the first thing you have to do is get the data. Tanto per cominciare, un'azienda deve acquisire i dati assicurandosi che siano precisi. In secondo luogo, è necessario integrare i dati tra di loro, in modo da avere non tante isole di informazioni, ma un quadro completo di dati incrociati sui propri clienti, sui fornitori, eccetera. Inoltre, l'azienda stessa deve iniziare a pensare in termini quantitativi. È un vero e proprio cambiamento culturale. Le decisioni devono essere prese sulla base dei dati a disposizione e non basandosi sull'istinto. L'amministratore delegato di una società con la quale lavoriamo ha una targa sulla sua scrivania che dice: "In God we trust, everybody else brings data." Per la fede c'è Dio. Tutti gli altri ci forniscono dei dati. In questa compagnia ci sono solo tre modi per essere licenziati: se molesti una cameriera, si occupano di ristorazione; se rubi, o se prendi una decisione senza basarti sui dati. Come vediamo, si tratta proprio di un cambiamento di mentalità. E tutto ciò ha davvero portato dei grandi risultati a questa società. E così abbiamo concluso questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Grazie oggi in regia a Carmelo Lauricella. Tra poco il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile online attraverso il servizio podcast di Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Grazie anche ad Anita Panizza in redazione. Ci risentiamo sabato prossimo, come sempre tra le 16 e le 17 su Radio 24. L'augurio di un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.